forse è il momento di iniziare a capire cosa cercare. Restare fermo non è sempre facile trovare la strada per il mare. Quando torno a te c'è solo deserto e terra scura. Ma ora mi spinge a terra, a volte senza semplicemente volare. Il mare è un posto per sono